insomma dice che non c'è molta vendita e quindi no, non stanno prendendo niente, ma io gli ho detto se vuoi provate a vedere, però provate, ma se contenete anche i prezzi, perché tutti le, se volete vendere un pezzo volete vendere quanti due, se i prezzi non sono conti, adesso gli dico specialmente, io ho parlato con loro, specialmente adesso che la gente si vede che c'è anche un pittino di differenza, lo prenderà, Parliamo scoperti i siti come sono, quelli che sono più cari, quelli che sono meno cari, noi ci appoggiati, ma come tipo comunicazioni non abbiamo fatto la vita. È quello più onesto che c'è. Gli altri ci sono anche vendi per fare differenza, quindi... io mi trovo molto bene lì, continuo a comprare lì perché ho un rapporto anche di clientela e venditore, quindi ho un buon rapporto, mi danno dei consigli, poi me li richiedo, se non so qualche cosa mi passa il tecnico, sono molto gentili, hanno dei modi di fare che a me mi garbano e tante volte quello lì vuol dire più delle magari delle 5 euro in più che ti fa un negozio 5 euro in meno, tante volte la gentilezza è quella che attira il cliente. Certamente, noi è la prima cosa, dopo c'è poi tutto, se la merce è scalente, no? Non lo guardo comprato niente si viene, perché anche se dopo, quella plastica piatta che è attorno, da che esce, si corretta, dove si corretta, si corretta per sempre lì stesso. Allora gli ho giocato la sigla, insomma, ho fatto il passo. No, per parte, io dico mentre scaldi con Salvatore, dici sciogli tutto canto attorno, io lo so già, con le bacchette bisogna prendere, io alcune bacchette ce l'avevo, infatti ho fatto gli spezzoni, e ce li ho per qua, ma li ho tenuti perché non sono neanche farlo più, non sono più ordinato, non sono gli alfero, non sono gli altri, ma non più con le bacchette. Quindi, l'ho buttato, se no te lo facevo. radio ne ha parlato anche di meno. Il più vecchio sono io. Buonanotte a tutti. Marco Giappetto. La mazza che ti mi pare, vabbè. C'ha 10 anni di più, da fino a che come sembra un ragazzo di 25 anni. Attenzione, c'è stata una super sovramodulazione, non so chi sia, avanti. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao Massimilia, tu eri cacchio, sei entrato come un demolitore, casa. Hai mezzo coperto tutti qui. Cazzo, c'è colore, parcheggio, non lo so, va bene, non fa niente, ciao, buonanotte. Ciao, Massimilia, ci sentiamo presto, buon RT e buon tutto, vai. Comunque, buonanotte, Massimilia, ti ha la partita, buonanotte, 9:30 la parte mia, infatti, addirittura, poi si è sotto casa, insomma. Ciao, Massimilia, alle prossime. Io ancora vivo, la cosia. Ma buongiorno. Ciao Massimiliano, adesso provo a regolarlo, meglio va? Sì, adesso sì, ciao.